Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Entrarono. Lei richiuse con attenzione per non provocare rumori. Salirono al terzo piano. L'ambiente era ben illuminato e gradevole. I profumi erano quelli di un'imminente primavera. La stanza linda e decorosa. Non fu un rapporto professionale. Fu un incontro pieno di imbarazzo e pazienza, una conoscenza intima e un profondo abbandono. Mi chiamo Giuseppe Moretti, io abito a Pesaro con la famiglia, un paesino vicino a Pesaro, e sono in pensione, però esercito ancora l'attività di consulente nel mondo dell'arredo. Non è una puntata facile questa per avere dei messaggi. Per avere, diciamo, delle confessioni, per avere delle persone che hanno voglia di raccontare la loro esperienza. Non è facile perché si tratta un argomento che, mi verrebbe da dire spinoso, non lo è in realtà, però ci sono un sacco di moralismi, ci sono un sacco di un sacco di argomentazioni riguardo all'argomento di oggi che sono in parte vere e in parte meno, però fondamentalmente creano una sorta di barriera all'entrata, diciamo così. Oggi si parla della vostra esperienza e così facendo chiaramente, mica tanto chiaramente, anzi, diciamo che rimane aperto a uomini e donne l'argomentazione e rimane aperto a uomini e donne l'inviare dei messaggi, sia via SMS, sia via Twitter, Facebook o la mail. Perché dicevo, l'argomento di oggi ha a che fare con il sesso a pagamento e con il racconto di quell'esperienza, di quell'avventura, comunque sia accaduto, se è stato iniziatico o se non lo è stato, se è stato comunque un rapporto in cui avete dovuto dare dei soldi, in maniera consenziente ovviamente, da una parte e dall'altra. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Sul profilo Facebook, infatti, dove di solito arrivano un sacco di messaggi delle persone che hanno voglia di condividere, non ne sono arrivati fondamentalmente. Ubaldo scrive: su coraggio, non vi vergognate. Daniela scrive: un mio amico una volta me lo raccontò, cioè mi disse solo poche parole, mi disse, le misi la mano fra le gambe, che pelle morbida che aveva. 349-238-6666, tutto perché c'è una storia oggi, che è una storia che ci ha mandato Giuseppe e che e che è raccontata in terza persona. Noi non raccontiamo storie che abitualmente sono in terza persona, raccontiamo storie in cui ci si racconta in prima persona, e raccontandole io, leggendole io, è come se lo facessi per voi, no? Lo facessi per le persone che le hanno scritte. Per cui quando arrivano storie scritte in terza persona siamo sempre un po' restii, le guardiamo un po' di sottecchi. La storia di Giuseppe però... forse è anche giusto che sia così. È raccontata in terza persona perché ci vuole forse un certo distacco, o semplicemente bisogna farla rimbalzare su una terza persona singolare, su un lui o su una lei, in questo caso su un lui, su un certo Luca, per essere liberi, per sentirsi liberi di raccontarla. Quindi se avete voglia di mandare un SMS, se avete voglia di scrivere un post su Facebook o un Twitter sul nostro profilo che è... Voi siete qui R24, potete farlo anche usando la terza persona, raccontandoli quando lui andò quella sera o quel giorno e a lui successe questo. 349-238-6666. È una storia in fondo anche molto dolce quella che ci ha raccontato Giuseppe, e suona così. La strada era scarsamente illuminata, solo il riverbero della forte illuminazione di Corso Marconi rischiarava con maggiore intensità l'imbocco di via Principe Tommaso. Non faceva freddo. Dalle nubi di tanto in tanto la luna appariva per poi nascondersi o farsi intravedere in filigrana. Luca camminava di buona lena. Era assorto ripensando al film appena visto, dove c'era una trattoria che offriva un menù molto piccante. Adua e le compagne si chiamava. Lei camminava lentamente sul marciapiede opposto. Aveva appena svoltato l'angolo, provenendo da Corso Marconi, e non era piccola, ma forse il mezzo tacco la faceva più alta di Luca. Dall'aspetto e dalla postura non si poteva considerare una donna di piacere. All'improvviso però lei attraversò la strada e lo apostrofò. C'era solo la necessità di portare a compimento quello che nell'ambito della famiglia non si riusciva a a ottenere, perché l'educazione che io avevo ricevuto, ma tanti anche altri come me, portava a un certo distacco, a una certa lontananza di fronte al rapporto con l'altro sesso. Luca non ebbe la minima reazione e imbarazzo e capì subito che quella notte doveva affrontare l'incubo. Rallentando il passo, non smise di camminare. Non pronunciò nessuna parola, nemmeno quando lei lo affiancò invitandolo a seguirla. Non ci furono contrattazioni, non ci furono reazioni, tutto accadde con la massima naturalezza. Perché i valori ai quali Luca si era sempre ispirato e ai quali aveva sempre mantenuto fede, perché crollarono? La decisione di farsi cucciolo non partiva dal desiderio di soddisfare un impulso ormonale, ma dalla volontà di raccogliere la sfida che gli veniva lanciata nell'attesa di comprenderne il dopo. Lui camminava in silenzio, mezzo passo in ritardo su di lei, mentre i pensieri erano in continua eruzione. Le paure, l'ansia, la solitudine, la strada completamente deserta e l'età apparente della donna. Poteva essere vicina alla cinquantina. Cosa sarebbe mai potuto accadere, pensò. Attraversarono Corso Marconi. Lui la seguiva senza proferire parola. Lei comprese il disagio e rispettò il silenzio. Solo una lieve tiritera di una vecchia canzone accompagnava i passi cadenzati sul marciapiede. Tra svolte brevi e rettilinee arrivarono davanti a un portone. Nell'inserire la chiave, lei portò l'indice sulla punta del naso. Entrarono e lei richiuse con attenzione per non provocare rumori. Salirono al terzo piano. L'ambiente era ben illuminato e gradevole. I profumi erano quelli di un'imminente primavera, la stanza linda e decorosa. Non fu un rapporto professionale, ma un incontro pieno di imbarazzo e pazienza, una conoscenza intima e un profondo abbandono. Adesso ci sono altre opportunità e quindi non c'è una manifestazione di repulsa o di attesa. Il cuore della notte trascorse lento, ma intenso, di scoperte e attenzioni. Al mattino Luca si ritrovò in strada. La giornata si presentava serena. Rincasando presso la pensione dove alloggiava, ripensò ad Adua e le compagne e alla notte appena trascorsa, alla sua iniziazione. La casualità di un incontro aveva liberato l'anima di un ragazzo ventenne dagli incubi giovanili che lo attanagliavano. Non era scappato, aveva accettato la sfida. Non incontrò più quella signora, non si incamminò più su quella strada, non la cercò più. Per Luca, lei si chiamerà per sempre Adua. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il consenso. Quando sento qualcuno che dice che la prostituzione è il mestiere più antico del mondo, divento nervoso. Intanto perché lo sanno tutti che non è vero, no? Perché il mestiere più antico del mondo è quello dell'inventore. E poi perché non so, ma non mi viene da sorridere. Credo che l'unica maniera per parlare di questo tema sia ascoltare chi questo lavoro lo fa, chi ne fa uso e chi lo studia. Quello che è certo da questa storia però è che per Luca e per le sue difficoltà con il sesso, per un ragazzo di 20 anni dell'epoca, è stato un bene che esistesse una Adua. Nessuno sa esattamente quante siano le prostitute in Italia. C'è soltanto una stima che pare le dia tra le 50 e le 70.000. E non tutte sono sfruttate da un protettore, ma la maggioranza sì. E girano parecchi soldi in questo affare. Secondo l'osservatorio dell'Università di Trento, in confronto all'Europa, l'Italia ha il record delle donne vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Sono 115 ogni 100.000 abitanti maschi con più di 15 anni. Poi al secondo posto c'è l'Austria con 84, la Spagna 54, la Francia 27. E non so se l'utente medio o il cliente, non so come si dica, conosce tutti questi numeri, ma ho trovato delle statistiche sulla percentuale di uomini che frequentano le prostitute. per cui per esempio in Inghilterra sono il 7%, in Svezia il 13%, in Italia invece, secondo delle stime del Ministero dell'Interno, sono 9 milioni, sono 9 milioni di persone. Una percentuale molto più alta rispetto a qualsiasi altra nazione europea. In tutto il mondo invece le prostitute o le donne che si prostituiscono sono 40 milioni. 40 milioni, per capirci, è più dell'intera popolazione del Canada e dell'Austria messe insieme. In 22 paesi al mondo la prostituzione è completamente legale, che sono la Germania, la Grecia, l'Austria, l'Olanda, la Colombia, il Messico, per dirne alcune. Altrove invece è più o meno tollerata. In Sudafrica il prezzo medio è di $1, mentre le escort d'alto bordo possono arrivare a guadagnare anche $10,000 all'ora. E poi ho scoperto che Thailandia e Giappone sono i luoghi dove la prostituzione è più diffusa al mondo. E io comunque, quando penso alla prostituzione, penso sempre alla Gradisca, me la ricordate, che era un personaggio di Amarcord, distesa su un letto di una suite del Grand Hotel di Rimini. Però mi viene in mente soprattutto un'altra scena di un altro film meraviglioso, che c'era una volta in America. La scena in cui si vede un ragazzino che mi sembra fosse Pazzi, da giovane, che avrà avuto non più di 13 anni. Lui si compra una charlotte alla russa, che è una pasta particolarmente buona, per farne dono a Peggy, che è una ragazza che in cambio gli darà un po' di amore. Lui è lì, con la pasta in mano, nel pieno della depressione americana, sale le scale e bussa alla porta di Peggy, che però sta facendo il bagno, e gli dice di aspettarla fuori. Lui allora si siede sui gradini e aspetta. Lei però se la prende comoda e sul ballatoio rimangono lui e la sua pasta a guardarsi. Lui non vede l'ora di andare da Peggy, solo che c'è anche una gran fame. E poi la pasta c'è, mentre Peggy per ora è solo una voce al di là della porta. Il tempo passa e lui decide di dare un piccolo assaggio al dolce e poi vuole richiuderne la confezione della pasticceria. Solo che è buonissima e non resiste alla tentazione e se la mangia tutta. La finisce proprio quando Peggy esce dalla porta con il cesto dei panni da stendere, chiedendogli perché fosse venuto. Lui ha le mani e la bocca sporche di panna e non riesce a dire niente, solamente una cosa: sarà per un'altra volta. Pest, 16 anni fa, si chiamava Angie, così diceva, era bellissima, facciamo sesso per più di un'ora, sembrava vera, dovemmo smettere sotto le minacce del padrone del locale, la ricordo ancora, non ho più voluto riprovare. 349-238-6666, hanno deciso di raccontarlo non in terza persona nei messaggi, quelli che stanno scrivendo e che ci raccontano la loro esperienza di sesso a pagamento, comunque sia andata, che sia andata bene o male, che sia un buon ricordo o un cattivo ricordo. Nat scrive: un mio amico sposò la ragazza che si prostituiva davanti a casa sua, dove abitava con i genitori. Immaginate. Ecco, a questo punto, essendo in terza persona, non so se pensare che sia lui o realmente un amico, ma chi se ne frega, non è importante. E Matteo mi scrive: ciao, a me è successo di farlo per un appuntamento che doveva essere di solo sesso, alla fine ci siamo rivisti e ora stiamo insieme. E poi ancora qualcuno che ce l'ha fresco fresco a questa esperienza, che mi scrive: sono appena tornato da un incontro con una escort, quando abbiamo finito mi ha detto buon Natale, buone feste e mi ha dato un bacio sulla guancia. Meglio di molte donne che conosco. Vabbè, questo ce l'ha con le donne, quindi non fa testo. Beh, nel senso che, cosa vuol dire meglio di molte donne che conosco? No? È questione di buona educazione, fare gli auguri e non far. Ah, ok. 349-238-6666. Tutto perché Giuseppe ha scritto una storia che a me è piaciuta moltissimo, che mi sembrava molto delicata e raccontava dell'uscita da un incubo, in realtà. Pronto, Giuseppe? Ehi là, ciao. Ciao, come stai? Io sto bene. Dove ti trovi, Giuseppe? Dove sei? In casa, in questo momento. Ma tu, ricordami... Sono a Montelabate, in provincia di Pesaro. Ma tu ricordami se lavori, sì, no, sei in pensione... Mi lasci parlare un minuto? Vai, come io no? Ti ringrazio per la seconda performance che mi stai facendo fare, perché l'anno scorso io sono quello della bicicletta. Certo, mi ricordo, ecco. Come no, certo. E quindi mi fa molto piacere risentirti ed essere stato ancora scelto per un racconto. Bene. È un racconto che è così, mi è venuto spontaneo, ci sono tante cose che dette, non dette, ma soprattutto non vorrei parlare tanto di prostituzione, ma bensì di un ragazzo, di ragazzi della mia gioventù, di quando ero giovane, che partivano con una valigia, andavano a Torino, Milano, all'estero, e dovevano da soli affrontare tutta una vita. Mm. E tra la vita c'era anche il rapporto con l'altro sesso. È lo stesso discorso che io ho in testa dei ragazzi che sbarcano a Lampedusa. Sono soli, tutti maschi, e cercano anche loro una forma di affetto. E l'affetto lo prendono come lo possono prendere. Ho fatto un predicozzo? Un pochettino sì, però ci stava. Giuseppe, però volevo chiederti, volevo andare proprio a fondo di questo ragionamento qua, perché è chiaro che si parla di quello nella storia, no? Di un ragazzo di 20 anni che è solo, che cammina per strada di notte e cerca in qualche modo un po' di calore, no? Avevo visto il film, quindi era una cosa era nell'aria. Era nell'aria, ecco. Senti, ma perché per un ragazzo di 20 anni la sessualità o la vita sentimentale erano considerate un incubo? Tu scrivi esattamente così. Sì, perché l'educazione, perché vivere case chiesa, perché c'era inculcata la paura, ma non solo attraverso il parroco, ma anche nell'ambito della famiglia. Ehi, vai su a Torino, stai attento, mi raccomando. Capisci? Era tutto, cioè, poi era il lavoro, era la Fiat, era l'ambiente che era molto, ma molto, come si può dire, ti vincolava molto, quindi non ti permetteva di fare cose strane. E quindi questa già di per sé poteva considerarsi una conquista, una maniera diversa di affrontare la vita. Che anni erano, Giuseppe? 66, 60, fine 65, primi del 66. Senti, tu che cosa hai fatto nella vita? Io ho lavorato alla Fiat a Torino, poi a Milano all'Alfa Romeo, poi all'Innocenti, poi dall'automobile sono passato al mobile. E ho fatto Cassida, B&B Italia e poi mi sono trasferito a Pesaro. Senti, invece adesso sei tornato a Pesaro, giusto? Sì, sei, ok. Dal 90. Hai detto Monte Labate è il paese esattamente? Sì, è un paesino tra Urbino e Pesaro. Senti, Questo tipo di racconti sono dei racconti che in realtà sono abbastanza comuni nelle persone, o perlomeno non tanto il racconto, quanto l'atmosfera che ne esce da questo racconto, il fatto che queste donne in qualche modo davvero liberassero i ragazzi di un peso. Questa è una cosa che non so se succede ancora, non so come succede, però in sostanza, correggimi se sbaglio, c'è nella storia che hai raccontato un tono di liberazione e un ricordo piacevole di quella serata e di quel momento di passaggio, di iniziazione, come l'hai chiamato tu, è giusto? Era uscire da un incubo, era uscire da... Adesso è più facile, perché? Perché a 16 anni, 15 anni, 16 anni c'è un rapporto completamente diverso con l'altro sesso, un'amicizia completamente impostata diversamente, e quindi è tutto più facile da questo punto di vista. Forse è troppo facile, forse, perché poi non si può mai giudicare quello che passa nella testa della gente. Ma in quei momenti lì, per me, per noi che vivevamo in solitudine, poi, perché andare in pensione, a casa in pensione, andare a lavorare, tornare a casa in pensione, riprendere il lavoro, era una gestione molto, molto complicata. Ho capito. Giuseppe, io ti ringrazio molto per questa tua seconda storia che ci hai mandato e per questa seconda chiacchierata che abbiamo fatto. Passa una buona serata. L'anno prossimo ce ne sarà un'altra. Va bene, l'aspettiamo. Speriamo di essere ancora qui. Auguri, ciao. Adesso me lo ricordo benissimo Giuseppe dalla foto, dopo averlo rivisto. Ricordavo la sua storia, ma me lo ricordo benissimo. Ha i capelli grigi, ha dei baffi grigi e una bella faccia pasciuta. Ha una montatura di occhiali, di quelle montature che erano di modissima, poi sono passate di moda e adesso sono tornate di gran moda. Quelle ovali con... non so descriverle. Ovali, comunque. Ha su una tuta, credo, probabilmente in casa. Però ha lo schienale della sedia dietro che ricorda una di quelle panchine da calcio moderne, e a guardarlo sembra un allenatore della Bundesliga. Prostituta. Sostantivo femminile. Donna che esercita la prostituzione. Etimo dal latino prostituta, femminile di prostitutus, participio passato di prostituere, prostituire. Data secolo XIV. Mi scrive Andrea: sono stato in una casa chiusa in Svizzera, forse 15 anni fa. Lei era bellissima, io impacciato con gli amici, l'idea era divertente, ma la realtà fu deludente. Sono due più o meno i messaggi che arrivano. Questo e invece un altro che dice: frequento regolarmente gli FKK, che sembra un fucile automatico, è scritto così, ma immagino sia una casa chiusa, un bordello, in Austria, in Svizzera e in Germania. Quella sì che è civiltà. Appunto, i messaggi sono o uno che dice che non è stato un granché o l'altro che invece sostiene che la civiltà si misuri anche su questo. E poi qualcuno che non si firma dice: capitato, viaggi di lavoro, non c'è banda ai moralismi, è solo sesso con donne bellissimo, è squallido, lo pensavo anch'io, e invece non è così, almeno per me. Mai successo. Mai successo cosa? Che non ti è sembrato squallido. 349-238-6666. Quando abbiamo pensato a questa storia, ci siamo detti: in quella puntata lì dobbiamo per forza leggere un pezzo di Tropico del Cancro. Tropico del Cancro, che adesso è un libro che serenamente si trova sugli scaffali delle vostre librerie, ha fatto una gran fatica ad arrivare da noi, ci ha messo anni, perché è stato un libro molto controverso. È stato scritto nei primi anni 30, l'autore ovviamente è Henry Miller, nel 34 esattamente, però è arrivato in Italia nel 62, cioè 28 anni dopo, ed è arrivato in Italia in un modo abbastanza rocambolesco, cioè Feltrinelli ne comprò i diritti, però poi lo fece stampare in Francia usando il marchio prestato da un editore svizzero e riportando in terza di copertina questa avvertenza: avvertenza importante, questa edizione è destinata al mercato estero. L'editore ne vieta l'importazione e la vendita in Italia. Quindi, come dire, se ne lavarono le mani, e poi però, anche se era stampato a Varese, a dire la verità, e venne venduto sotto banco in Italia. E dopo una querela giudiziaria è entrata... Ah, ufficialmente nel mercato italiano è entrato nel 67, non nel 62. Quindi, 5 anni dopo, 33 anni dopo che è stato scritto. È un romanzo, scabroso, e parla di quello, che facevano moltissimi scrittori americani all'epoca: mollavano la Grande Depressione, mollavano gli Stati Uniti e venivano a vivere una vita un po' bohemienne in Europa e soprattutto a Parigi. È ambientato lì, l'autore Henry Miller lo scrive in prima persona, e questo pezzo parla del protagonista di questa storia, che accompagna una persona particolare, un ospite particolare, in un bordello. Una notte, per caso, Kepi mi chiese se volevo accompagnare uno dei suoi clienti a un casino nei paraggi. Il giovane era appena giunto dall'India e non aveva molti quattrini da spendere. Lui era uno degli uomini di Gandhi, uno della piccola schiera che aveva fatto la marcia fino al mare al tempo dell'agitazione per il sale. Un discepolo di Gandhi molto vispo, devo dire, nonostante i voti di astinenza che aveva fatto. Era chiaro che da anni non vedeva una donna. Riuscì soltanto a portarlo fino a Rue Laferrière. Pareva un cane con la lingua ciondoloni. Appena entrati dalla Hamilton, cominciò a perdere il suo sangue freddo. E quando all'improvviso si trovò circondato da un branco di donne nude, mi lanciò uno sguardo costernato. «Prendine una», gli dissi, «scegli pure». Ma lui era così frastornato che quasi non osava nemmeno guardarle. «Scegli tu per me», mormorò arrossendo fortemente. Io le guardai con occhio freddo e scelsi una ragazza giovane e grassoccia che pareva piena d'entusiasmo. Ci sedemmo in salottino in attesa dei bicchierini. La madama volle sapere perché non prendevo anch'io una ragazza. «Sì, prendine una anche tu», disse il giovane indù, «non voglio restare solo con lei». Così fecero rientrare le ragazze e io me ne scelsi una piuttosto alta, sottile, con gli occhi malinconici. Ci lasciarono soli, noi quattro, nel salottino. E dopo un po', il mio giovane Gandhi si china verso di me e mi bisbiglia qualcosa all'orecchio. «Certo, Se la preferisci, prendila, dissi. E poi, impacciato e imbarazzato alquanto, spiegai alle ragazze che volevamo fare cambio. Capii subito che avevamo fatto un passo falso, ma ormai il mio giovane amico era diventato allegro, scurrile addirittura, e non c'era da fare altro che salire sopra alla svelta e concludere. Love is real. Stamattina ho incontrato una persona per altri motivi legati al lavoro, ma non a questo, e non aveva mai sentito il programma, e gli raccontavo che tipo di programma era questo qua, e per farglielo capire, dopo avergli detto raccontiamo storia degli ascoltatori, gli ho detto guarda, per farti un esempio, qualche giorno fa abbiamo raccontato la storia di un tizio che non ha visto una finale di Champions su una crociera che era diretta ad una sorta di festa dell'antimafia. L'altro giorno abbiamo invece raccontato la storia di un ricercatore che ha scoperto delle caratteristiche particolari del DNA, e oggi invece trasmettiamo la storia di un tizio che fece la sua iniziazione sessuale con una prostituta. Ecco, questo mi sembra un buon quadro per raccontare che tipo di storie, o meglio nemmeno il tipo di storie, quanto variano le storie che arrivano a questo programma, e che se avete voglia di inviare continuate a farlo a voi siete qui @radio24.it. ringrazio tutti quelli che mi spiegano che cos'è l'FKK. Sta per Freikörperkultur, che è la cultura del corpo libero, nudismo alla tedesca, qualcuno mi scrive, quindi ovviamente niente a che fare con la prostituzione. Alcuni mi scrivono sono campi di naturisti, però insomma si è capito che gira intorno a lì. Una mia amica fa la escort, mi scrive qualcuno, ho delle incredibili confidenze, incredibili, se, ho capito, ma se mi scrivi solo che hai delle confidenze incredibili e non mi scrivi nemmeno mezza, lascia perdere. Grazie a tutti quelli che hanno fatto la puntata di oggi, grazie a Margherita Ina, grazie a Fabio Cantadori, grazie a Tiziano Bonini e grazie a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era di Giuseppe e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Oscar, vivo a Hong Kong, la storia di domani è la mia e parla di sommergibili, di amicizia profonda e fraterna, impossibile da trovarsi sulla terraferma, ma anche di vicendevoli tiri mancini. Questa è la mia storia e io sono qui.